eerie tones of decay. Dimmer voice of the maiden. The sun is riding high in the sky. You got a river. It's a sensazione che tu mi vuoi dare. La sensazione che tu mi vuoi dare. Le sensazioni che tu mi vuoi dare. Le sensazioni che tu mi vuoi dare. Amore ancora. Il freddo umane calore. Il freddo umane calore. Mai stanchi, mai doni, lontani in noi. Le sensazioni che tu mi vuoi dare. Le sensazioni che tu mi vuoi dare. Le sensazioni che tu mi vuoi dare. Le sensazioni che tu mi vuoi dare. I play for safety. Tutto lasciando indietro il resto. Le sensazioni che tu mi vuoi dare. Le sensazioni che tu mi vuoi dare. Human nature revolves like a crime. Le sensazioni che tu mi vuoi dare. Human nature revolves like a crime. from your manifesto del tuo comportamento. In fondo al manifesto del tuo comportamento, sapendo che non sbaglio, sapendo che non sbaglio. Un sentimento